America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Avete sentito la voce concitata di questo giornalista americano che faceva un reportage dalla Carolina del Nord, dove ci sono stati 92 tornados quasi simultaneamente, una famiglia di tornado, è stato un record, e dunque questa famiglia di tornado che si è abbattuta sullo Stato ha fatto una devastazione totale. Ci sono stati, pensate, 43 morti nel corso del weekend, centinaia di feriti, migliaia di senza tetto. I tornado si formano all'improvviso, ruotano, avanzano, li si vede arrivare questi tornado dalla distanza. C'è la storia di un ristorante, la ristoratrice ha visto arrivare questo tornado, ha detto ai suoi clienti di chiudersi tutti nella cucina che era più protetta, e dopodiché sono rimasti lì ad aspettare, lo vedevano arrivare, un nuvolone nero a spirale che avanzava verso di loro, poi all'improvviso ha deviato ed è andato contro un negozio vicino scoperchiando il tetto. Greece, Ireland, Portugal simply have too much debt, more debt than their economies can afford, and it's likely they'll need to restructure or default. The question is, how do you do that in an orderly manner without causing contagion to Spain and other countries and causing chaos? Dai tornado naturali a quelli finanziari. La voce che avete sentito è di Neil Kashkari, che in questo momento è responsabile per le nuove iniziative negli investimenti della PIMCO, che è uno dei più grossi fondi di investimenti al mondo, sicuramente uno dei più grossi fondi di investimento americano. Nel 2008 fu incaricato dal segretario al tesoro Henry Paulson, aveva lavorato con Paulson a Goldman Sachs, Kashkari, di mettere a punto un programma di aiuti per alleggerire la crisi dei mutui subprime. Ci fu il famoso TARP, un programma da 700 miliardi di dollari, e ci fu un articolo sul Washington Post che fece un profilo di Kashkari, che ebbe una certa notorietà, e l'articolo era intitolato Mr. 700 Billion, il signor 700 miliardi di dollari. Ebbene, il signor Kashkari ha fatto una dichiarazione piuttosto pesante. Grecia, Irlanda e Portogallo, ha detto, sono troppo indebitate per le loro economie e questo porterà ad una ristrutturazione del debito oppure al loro fallimento. La domanda, dice, è come risolvere la questione in modo da non contagiare altri paesi, ad esempio la Spagna, e generare a quel punto il caos. Per ora abbiamo visto dei salvataggi, ma c'è bisogno di una ristrutturazione. La provocazione di Kashkari giunge a cavallo delle riunioni del Fondo Monetario, Banca Mondiale, che si sono chiuse nel fine settimana a Washington. Si è parlato proprio di Grecia e ovviamente dal punto di vista dei funzionari internazionali c'è più ottimismo di quello di Kashkari. C'è una specie di partita, di braccio di ferro in cui da una parte il mercato provoca e cerca di vedere fino a che punto può tirare la corda, dall'altra invece gli alti funzionari internazionali che tendono a smussare qualunque ipotesi di rischio, di contraccolpo, di pericolo. E sulla Grecia in particolare il programma di privatizzazione, si dice, dovrebbe aiutare molto. Sul Portogallo c'è ottimismo e dunque c'è una dicotomia, direi, fra la posizione ufficiale e quella del mercato. Di certo il braccio di ferro andrà avanti, ma è un braccio di ferro che non riguarda soltanto i mercati nei confronti dell'Europa, ma riguarda, direi, i mercati nei confronti un po' di tutte le economie mondiali, prima fra tutte, ad esempio, quella degli Stati Uniti d'America. I want to make it perfectly clear that Congress will raise the debt ceiling. You're sure about that? Absolutely. And they recognize it. And they told the president that on Wednesday in the White House. I sat there with them and they said, "We recognize we have to do this." And we're not going to play around with it. Tim Geithner, segretario al Tesoro, era anche lui ovviamente alle riunioni del Fondo Monetario Internazionale, e ha detto domenica durante un'intervista televisiva di essere certo che il Congresso alla fine alzerà il tetto sul debito. Vi ricordo che c'è una data il 16 maggio, potrà essere prolungata di alcune settimane, si potrà forse arrivare fino a luglio, ma comunque, che sia poche settimane o che sia qualche mese, c'è un tetto all'indebitamento consentito al governo federale americano e questo tetto sta per essere superato. Se non si autorizzerà da parte del Congresso il superamento di questo limite, il rischio è che la stessa America, gli stessi Stati Uniti possano andare in default. Questo ovviamente nessuno lo vuole pensare, tantomeno il segretario al tesoro, ma il braccio di ferro a Washington è piuttosto pesante. Io tendo a condividere quel che dice Geithner. Alla fine sicuramente si troverà una soluzione, si troverà anche un compromesso, credo, nel conflitto politico per mettere a punto un progetto comune per ridurre il disavanzo pubblico. Ma il problema finanziario, questo tornado che gira dalla Grecia all'America, passa anche per la Cina. Domenica la richiesta della Banca Centrale Cinese è di aumentare al 20,5% l'ammontare delle riserve delle banche cinesi, e questo per sottrarre questa liquidità alla disponibilità di prestiti. Dunque si impone di mantenere certe riserve per evitare che vi sia disponibilità per concedere prestiti. Perché? Perché in Cina c'è un rischio inflazione piuttosto pesante. Gli ultimi dati, il tasso di inflazione a marzo ha raggiunto il 5,4%, il livello più alto negli ultimi 3 anni, l'indice dei prezzi alla produzione nello stesso mese è aumentato del 7,3%, l'indice dei prezzi al consumo, vi dicevo, continua a lievitare perché in Cina le condizioni del credito sono determinate solo in parte dai tassi di interesse e dalla politica monetaria. E nonostante vi siano continui tentativi per cercare di fare degli interventi restrittivi in termini di politica monetaria o comunque di controllo della liquidità, come vi dicevo, alla fine l'idea degli operatori internazionali è che la liquidità in circolazione in Cina sia pur sempre troppo elevata rispetto ai target fissati dall'esecutivo cinese proprio per tenere sotto controllo l'inflazione. Di tutto questo, squilibri americani, cinesi, problemi in Europa, si è parlato nel contesto del G20, si è deciso di mettere a punto dei nuovi indicatori che consentiranno di far scattare dei campanelli di allarme e dunque di poter poi intervenire a seconda di quel che dicono gli indicatori per rimediare agli squilibri. Squilibri per esempio sul fronte commerciale, un disavanzo commerciale o un avanzo commerciale troppo elevato, un tasso di cambio troppo forte che non ha riscontro diretto sulle logiche del mercato, un indebitamento eccessivo, un disavanzo pubblico al di là dell'accettabile. È stata anche compilata una lista di paesi a rischio e dunque le autorità cercano di fare il possibile per poter arginare questo contagio, ma devo dire che le parole di Kashkahari sono alquanto preoccupanti. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter 24 America, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Lady Gaga continua a fare scandalo, c'è un nuovo suo video che circola su internet e vestita da suora. È il secondo single che ascoltiamo del nuovo album che uscirà il 23 di maggio. Il single è Judas, un disco piuttosto provocatorio in cui ricostruisce un rapporto tra Maria e appunto Giuda. Ha scatenato, devo dire, forti polemiche nella comunità cattolica americana e comunque ci è sembrato opportuno di ascoltare questo disco che ha fatto scandalo. Lady Gaga, Judas. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!